Così, dalla stessa Parigi notturna, dalle cui profondità era già penetratosi nella mia camera, descrivendo il raggio d'azione d'un essere lontano, il messaggio invisibile, stava per emergere e apparire. Dopo quella prima annunciazione, la medesima Albertine, conosciuta un tempo sotto il cielo di Balbec, quando i camerieri del Grand Hotel, intenti ad apparecchiare, erano accecati dalla luce del tramonto, e attraverso le vetrate completamente aperte, gli impercettibili soffi della sera giungevano liberamente dalla spiaggia, dove qualcuno ancora s'attardava a passeggiare, sino all'immensa sala da pranzo, dove non avevano ancora preso posto i primi commensali, e nella specchiera, appesa dietro il banco, s'accendeva il riflesso rosso dello scafo e indugiava il riflesso grigio del fumo dell'ultimo battello per Ribelle. Non mi interrogavo più sulle ragioni del ritardo di Albertine, e quando Françoise entrò ad annunciarmi «C'è la signorina Albertine!» fu solo per dissimulazione che, senza nemmeno muovere la testa, mi stupii. «Come mai così tardi?» Ma a quel punto, alzando gli occhi verso Françoise, quasi fossi curioso di controllare una sua risposta che doveva corroborare l'apparente sincerità della mia domanda, ma vidi, con ammirazione mista a furore, che capace di rivaleggiare con la stessa Berma nell'arte di far parlare gli inanimati capi di vestiario e i tratti del volto, Françoise aveva saputo ammaestrare il suo corpetto, i suoi capelli, i più bianchi dei quali, portati alla superficie, erano esibiti come un certificato di nascita, il suo collo curvato dalla stanchezza e dall'obbedienza. Essi la compativano per essere stata strappata al sonno e al madore del letto, nel mezzo della notte, alla sua età, costretta a vestirsi in fretta e furia, col rischio di buscarsi una polmonite. Così, temendo d'aver dato l'impressione di volermi scusare per la venuta tardiva di Albertine, «Comunque», soggiunsi, «va tutto bene, sono contentissimo che sia qui», e diedi libero corso alla mia gioia profonda, che tuttavia non rimase intatta a lungo di fronte alla pronta replica di Françoise. Senza proferire alcuna lamentela, anzi ostentando di fare del suo meglio per soffocare una tosse irresistibile e limitandosi a incrociare sul petto lo scialle come se avesse freddo, si mise a riferirmi tutto ciò che aveva detto ad Albertine, non tralasciando di chiederle notizie di sua zia. «Le dicevo appunto che il signore doveva aver paura che la signorina non venisse più perché non è certo ora da venire, è quasi mattina, ma la signorina doveva essere in qualche posto dove si divertiva ben bene, perché invece di dire semplicemente che le dispiaceva d'aver fatto aspettare il signore, mi ha risposto con un'aria da meno in fischio, meglio tardi che mai», e Françoise concluse il suo resoconto con queste parole che mi trapassarono il cuore. «Dicendo così, si è tradita. Forse non voleva farsi capire, ma...» Non c'era troppo da stupirsi. Ho già spiegato che Françoise rendeva raramente conto, quando le si affidava qualche commissione, non tanto di quel che aveva detto lei, su cui si diffondeva volentieri, quanto della risposta della quale eravamo in attesa. Ma se, in via eccezionale, ci riferiva le frasi dei nostri amici, per brevi che fossero, generalmente si ingegnava, aiutandosi all'occorrenza con l'espressione, col tono, da cui assicurava che erano state accompagnate, a dare loro qualcosa d'offensivo. Eventualmente, era disposta ad ammettere d'aver subito da un fornitore, presso il quale l'avevamo mandata, una qualche villania, peraltro probabilmente immaginaria, purché, essendo rivolta a lei che ci rappresentava, che aveva parlato in nostro nome, la villania ci colpisse di rimbalzo. Si sarebbe dovuto opporle che aveva capito male, che era affetta da mania di persecuzione e che i negozianti non potevano aver fatto lega contro di lei. D'altronde, mi importava ben poco dei loro sentimenti. Non così di quelli di Albertine. E, ripetendomi quelle parole ironiche, «meglio tardi che mai», Françoise mi evocò subito gli amici con i quali Albertine aveva finito la serata, apprezzando dunque la loro compagnia più della mia. È buffa, ha un cappellino piatto, le dà un'aria strana con quei suoi occhiacci, soprattutto con quel cappotto che avrebbe fatto meglio mandare dalla rammendatura perché è tutto smangiato. Mi fa proprio ridere, aggiunse, come beffandosi di Albertine, Françoise, che raramente condivideva le mie impressioni, ma sentiva il bisogno di mettermi a parte delle sue. Avrei voluto far finta di non capire che tanta ilarità significava disprezzo e scherno. Ma per restituire colpo su colpo, obiettai a Françoise, pur non conoscendo il cappellino di cui parlava. Quello che chiamate cappellino piatto è qualcosa di semplicemente incantevole. Come a dire zero via zero, ribadì Françoise, esprimendo apertamente questa volta il suo totale disprezzo. Allora, con soave lentezza, perché la mia replica menzognera non apparisse come l'espressione della mia rabbia, ma della verità, e tuttavia senza perdere tempo per non far aspettare Albertine, rivolsi a Françoise queste parole crudeli. Siete straordinaria, le dissi mellifluamente. Siete tanto, cara. Avete mille qualità, ma siete rimasta esattamente a livello di quando siete arrivata a Parigi, sia come competenza in fatto di moda che come capacità di pronunciare bene le parole e non fare svarioni. Era un rimprovero particolarmente stupido, perché le parole francesi, che siamo così fieri di pronunciare alla perfezione, non sono, a loro volta, che svarioni, commessi da bocche galliche, che pronunciavano scorrettamente il latino o il sassone, non essendo la nostra lingua nient'altro che la pronuncia difettosa di qualche altra. Il genio linguistico allo stato vivente, il futuro e il passato del francese, ecco. Che cosa avrebbe dovuto interessarmi negli errori di Françoise? Rammendatura in luogo di rammendatrice non era forse una curiosità paragonabile agli animali sopravvissuti da epoche remote, come la balena o la giraffa, che ci mostrano gli stadi attraversati dalla vita animale? E, aggiunsi, se in tutti questi anni non siete riuscita a imparare, non imparerete mai. Non dovete sentirvene avvilita. Questo non vi impedisce d'essere una bravissima persona, di fare stupendamente il manzo in gelatina e mille altre cose ancora. Il cappello che a voi sembra una cosa da niente, imita un modello della principessa di Gaumont, costato 500 franchi. Del resto, conto di offrirne presto alla signorina Albertine uno ancora più bello. Sapevo che per Françoise il più grosso dispiacere era che io spendessi del denaro per persone che non le andavano a genio. Mi rispose con parole rese quasi inintellegibili da un improvviso affanno. Quando, più tardi, scoprii che era malata di cuore, quale rimorso provai per non aver rinunciato al feroce, sterile piacere di ribattere in quel modo alle sue osservazioni. Del resto, se Françoise detestava Albertine, era perché, essendo povera, Albertine non poteva incrementare quella che Françoise considerava la somma delle mie superiorità. Ogni volta che ero invitato da Madame de Villeparisis, sorrideva con benevolenza. In compenso, era indignata di vedere che Albertine non applicava la regola della reciprocità. Ero addirittura costretto a inventarmi suoi presunti regali, alla cui esistenza Françoise non prestò mai la benché minima fede. La mancanza di reciprocità la colpiva soprattutto in materia alimentare. Che Albertina consentisse ad essere invitata a pranzo da mia madre senza che noi lo fossimo da Madame Bonton, la quale peraltro trascorreva a Parigi sì e no la metà del suo tempo, perché il marito accettava missioni come una volta quando ne aveva abbastanza del ministero, le sembrava, da parte della mia amica, una indelicatezza contro la quale esprimeva indirettamente la sua riprovazione recitando questa strofetta molto popolare a Combray. Mangiamo il mio pane, o oh sì, ho tanta fame, mangiamo il tuo pane, o oh no, non ho fame. Feci finta di essere impegnato a scrivere. A chi stavate scrivendo? Mi chiese Albertina entrando. A una mia graziosa amica, Gilberte Swann. Non la conoscete? No. Rinunciai a interrogarla sulla sua serata. Sentivo che l'avrei rimproverata e che non avremmo più avuto il tempo, da talora, di di riconciliarci a sufficienza per poter passare ai baci e alle carezze. Era con questi che, senza il minimo indugio, volevo cominciare. Tuttavia, anche se m'ero un po' calmato, non mi sentivo felice. La perdita completa della bussola, del senso dell'orientamento che caratterizza l'attesa, persiste per qualche tempo dopo l'arrivo della persona che aspettavamo e, sostituendosi in noi alla calma in vista della quale ci dipingevamo la sua venuta con un piacere così intenso, non ci permette di gustarne alcuno. Albertina era lì, i miei nervi scossi, incapaci di sedare il loro tumulto, la stavano ancora aspettando. «Posso riscuotere un buono, Albertine?» «Tutti quelli che volete», mi rispose con la sua consueta bontà. Non m'era mai sembrata così bella. «Un altro ancora. Sapete bene che mi fa tanto, tanto piacere. E a me mille volte di più», mi assicurò. «Oh, che bel portacarte! Prendetelo, ve lo do per ricordo. Siete molto caro. Guariremmo per sempre da ogni romanticheria se cercassimo, nel pensare alla persona amata, d'essere come saremo quando non l'ameremo più. Il portacarte, la biglia di Gilbert, tutto ciò era stato importante, un tempo, solo in virtù d'uno stato puramente mentale, visto che adesso non erano più per me che un portacarte e una biglia qualunque. Chiesi ad Albertin se volesse bere qualcosa. «Mi sembra di vedere delle arance e dell'acqua», mi rispose. «Andranno benissimo». Potei gustare così, oltre ai suoi baci, la freschezza che, in casa della principessa di Grammont, mi era parsa superiore ad essi. E l'arancia spremuta nell'acqua sembrava rivelarmi, man mano che bevevo, la vita segreta della sua maturazione, il suo benefico influsso su certi stati del corpo umano, che pure appartiene a un regno tanto diverso, la sua impotenza a farlo vivere, ma in compenso gli effetti di irrorazione grazie ai quali può riuscirgli gradevole. 100 misteri che il frutto svelava, non già alla mia intelligenza, ma al mio apparato sensorio. Quando Albertin se ne andò, ricordai d'aver promesso a Swann che avrei scritto a Gilbert e mi sembrò più gentile farlo subito. Fu senza emozione e come mettendo l'ultima riga a un noioso compito di scuola che tracciai sulla busta il nome Gilbert Swann, di cui tempo addietro coprivo le pagine dei miei quaderni per regalarmi l'illusione d'essere in corrispondenza con lei. È che allora ero io a scriverlo quel nome, mentre adesso l'abitudine ne aveva demandato il compito a uno dei tanti segretari di cui si circonda. Costui poteva scrivere il nome di Gilbert con assoluta calma perché, collocato di recente in casa mia dall'abitudine, entrato di recente al mio servizio, non avendo mai conosciuto Gilbert, sapeva tutto al più, senza far aderire a queste parole alcuna realtà e solo per avermene sentito parlare, che era una fanciulla di cui ero stato innamorato. Non potevo accusarlo d'aridità. L'essere che io ero diventato in rapporto a lei era il testimone più adatto a capire che cosa lei stessa fosse stata. Il portacarte, la biglia d'Agata, s'erano semplicemente trasformati per me, rispetto ad Albertine, in ciò che erano stati per Gilbert e che sarebbero stati per chiunque non avesse proiettato su di essi il riverbero d'una fiamma interiore. Ma adesso c'era in me un nuovo turbamento, capace a sua volta di alterare l'effettivo potere delle cose e delle parole. E poiché Albertin mi diceva, per ringraziarmi ancora, «Mi piacciono tanto le turchesi», le raccomandai, «Fate in modo che queste non muoiano», affidando così a loro come pietre, il futuro della nostra amicizia, che tuttavia non era in grado di ispirare un sentimento ad Albertin più di quanto non avesse saputo conservare quello che univa un tempo a Gilbert.